Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata, l'ultima della settimana per quello che riguarda Focus Economia. Come sempre il venerdì avremo anche la poco invidiabile classifica e oggi avremo anche un approfondimento sulla Sicilia, chiaramente di carattere economico. Lo dico perché non entra tanto nella classifica oggi la Sicilia, ma vorremmo lasciare così modestamente, molto modestamente, degli appunti, delle note a quello che sarà il prossimo governatore della Sicilia. Vedremo come andranno le elezioni di questo fine settimana, di domenica, sui temi, sui dossier, insomma, economici che troverà sul suo tavolo. Se ne è occupato molto anche il Sole 24 Ore, ma dicevo, insomma, una regione che ha qualche problema di conti pubblici e di gestione dei soldi, con però anche un elemento virtuoso, perché devo dire che anche citare casi virtuosi, mi riferisco a quello che è successo nello specifico alla capitale della Sicilia, a Palermo, dopo che con un'operazione congiunta è riuscita a farsi attribuire dall'UNESCO un percorso, il percorso arabo-normanno, le ricadute sul territorio sono state importantissime, ma è migliorata, come testimonia chiunque si rechi a Palermo nell'ultimo anno, è migliorata moltissimo anche l'offerta turistica della città rispetto, se qualcuno conosceva Palermo, 10, 15 o 20 anni fa, proprio con un'iniziativa congiunta in cui il pubblico, ossia il comune, per vincere, per vedersi riconosciuto il patrimonio UNESCO nel percorso arabo-normanno, ha ottemperato ad alcune richieste, per esempio pedonalizzazione dell'area, maggiore pulizia delle strade. Il risultato in termini di iniziativa privata, quindi esercizi commerciali che sono stati aperti, è sotto gli occhi di tutti, e anche come fruizione e offerta turistica. Quindi è un esempio virtuoso di come il pubblico possa creare le condizioni affinché poi si liberi anche l'iniziativa privata, perché quando tu hai un percorso pedonale pulito e con il cosiddetto arredo urbano fioriscono negozi, bar, ristoranti e quant'altro, come, e la riqualificazione anche da parte dei privati degli edifici del centro storico che erano malmessi per essere buoni. Questo per quello che riguarda la Sicilia. Poi avremo la classifica nostra classica sugli sprechi della pubblica amministrazione e anche di alcune regioni italiane. Per quello che riguarda gli Stati Uniti, beh, avete sentito come ampiamente anticipato è Powell e quindi il nuovo Jerome Powell, il nuovo numero uno della Federal Reserve, prenderà il posto dall'anno prossimo di Janet Yellen. Anche oggi dati buoni per quello che riguarda gli Stati Uniti, con un dato invece non buono sui salari, a conferma che l'occupazione, o meglio la disoccupazione, è ai minimi storici, ai minimi da 17 anni per la precisione, ma i salari restano al palo nonostante il miglioramento del mercato del lavoro. Addirittura sono calati di uno 0,04%. Comunque crescono del 2,4% e è uno dei motivi per cui, secondo molti analisti, non cresce a sufficienza l'inflazione negli Stati Uniti. Cioè, questo recupero dell'attività produttiva negli Stati Uniti, non solo, è avvenuto sì con dei numeri simili a quelli pre-crisi quanto numeri aggregati, ma poi se si va a guardare la qualità del lavoro i salari sono più bassi. E questo, obiettivamente da molti è stato spiegato, è stato utilizzato anche per spiegare la vittoria di Trump in certe aree a forte presenza, diciamo, dei cosiddetti blue collar, quindi della classe operaia. Penso soprattutto alla Rust Belt, alla cintura della ruggine dove si produce, dove c'è l'industria automobilistica americana. Per quello che riguarda gli Stati Uniti, però, i democratici hanno attaccato il piano tasse presentato dai repubblicani, quello che si chiama, che va sotto il nome di Tax Cuts and Jobs Act, in cui l'obiettivo è ridurre l'aliquota per le aziende dal 35% al 20%, lascia invariata l'imposta per i più ricchi al 39,6%. I democratici hanno criticato il piano, pronti a dare battaglia. Anche i repubblicani non sembrano così compatti. Tra l'altro il progetto deve passare appunto l'esame della Camera e del Senato, e la misura ha un costo però inferiore ai 1.500 miliardi di dollari, una cifra già approvata dal Congresso che fa sì che la destra possa far passare la misura senza l'appoggio dei democratici, ma ripeto, i repubblicani non sono compatti al loro interni. E poi è arrivata una critica molto dura dell'ex ministro dell'economia statunitense, ai tempi di Bill Clinton, Laura Summers, che ha detto: è difficile vedere un beneficio sull'economia per il piano di tasse, di tagliare le tasse dei repubblicani, benefici solo ai ricchi, non la maggior parte dei benefici andranno ai più ricchi, l'idea che avrà una forte spinta alla crescita è delirante. E questo nel giorno in cui, secondo il World Economic Forum, i lenti progressi accumulati in un decennio verso la parità tra i sessi hanno subito una retromarcia nel 2017. Cresce non solo la disuguaglianza interna a molte economie, abbiamo già detto Gran Bretagna, Stati Uniti, in parte anche l'Italia, meglio invece nell'indice di Gini sulle disuguaglianze i paesi del centro-nord Europa, ma cresce anche la disuguaglianza tra uomini e donne, come riporta appunto il World Economic Forum. L'Italia tra l'altro precipita nella classifica dal 50esimo posto all'82esimo posto, eravamo 41esimi nel 2015, perché vede aumentare di oltre il 30% la disuguaglianza di genere, quindi tra uomini e donne, per la prima volta dal 2014. I miglioramenti più forti di nuovo sono nei paesi nordici, in un insieme di aree, ma il trend globale segna appunto una retromarcia. Questo per quello che riguarda altre notizie di carattere internazionale in genere. Adesso andiamo su quelle in breve, prima di passare a classifica, caso virtuoso e dossier economico sulla Sicilia. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Partiamo dalla borsa, che è negativa leggermente a Milano, meno 0,20%, invariata a Parigi, più 0,30% a Francoforte, invariata a Londra, più 0,11% il Dow Jones. A Milano Campari più 2,70%, ST Microelectronics più 2,5%, Fiat Chrysler più 2,30%, Recordati più 2%, Exor più 1%, Case New Holland più 0,90%, Hughes Net-a-Porter più 0,80%, come Terna. Il fronte opposto, Atlantia meno 2,70, Unicredit meno 2,60, oggi deboli le banche, Biper meno 2,5, UbiBanca meno 1,5, Banco BPM meno 1,40%. Madrid segnala oggi la peggiore, meno 1% dopo vari giorni in cui ha recuperato. Le banche appunto, dicevo, in flessione. Per quello che riguarda, tra l'altro, una notizia che ha a che fare con la borsa di una debuttante, mi riferisco alle Ferrovie dello Stato, a margine della presentazione dei nuovi treni Rock e Pop a Torino, l'amministratore delegato Mazzoncini ha detto che il debutto in borsa sarà sicuramente nel 2019, ed escludo che prima della fine del 2018 arrivino indicazioni dal nuovo Parlamento. Tornando sui titoli, dicevo, Banco BPM meno 1,50, Generali meno 1,20, Unipolsai meno 0,80, come Intesa San Paolo. Qualcuno mi scrive al 349-238-6666 se ST Microelectronics sta andando bene sulla scia del debutto, sulla scia dei conti della Apple e anche del debutto dell'iPhone X. Sì, uno dei motivi è proprio questo. Restiamo sulle notizie in breve. Segnalo oggi, come già hanno ricordato i nostri GR, alcune dichiarazioni del segretario del PD Matteo Renzi, che ha commentato su Facebook le audizioni di ieri in commissione d'inchiesta bicamerale sulle banche. In particolare ieri abbiamo commentato a lungo anche noi le audizioni di Barbagallo, e non solo, c'era anche la Consob. Dunque Renzi dice, scrive: chi ha sbagliato paghi, non è populismo, è giustizia. Sono certo che i lavori di questa commissione d'inchiesta saranno molto utili. Non diciamo che troppe cose non hanno funzionato. E già ieri, nell'audizione di Banca d'Italia e Consob, a proposito delle banche popolari venete, è emerso con chiarezza che il sistema tecnico di vigilanza e controllo non è sempre stato all'altezza. I manager e i banchieri che hanno sbagliato devono pagare, principio sacrosanto, ma se vogliamo che qualcosa cambi davvero, le alte burocrazie di questo paese devono smettere di buttare la croce addosso ai politici di turno e assumersi anche loro le proprie responsabilità. Ora che la polemica sul rinnovo del governatore si è placata, spero che sia chiara a tutti la posizione del PD sulle banche. Vogliamo andare fino in fondo, non accetteremo che la verità su questa pagina sia scritta dalle fake news. Noi come PD non abbiamo scheletri negli armadi, siamo totalmente liberi e vogliamo la verità. Si dibatte ancora di pensioni. Devo dire che oggi ho visto anche sui vari, come nei vari interventi, chi dice attenzione, il tema non è solo, o non è in senso stretto, l'allungamento dell'età pensionabile per chi sta lavorando, ma è soprattutto la mancanza di lavoro per giovani. Come dire, vediamo di capire se la priorità è avere delle risorse che permettano maggiori assunzioni di lavoratori giovani, penso a una decontribuzione un po' più insistita rispetto ai soldi che ci sono per l'anno prossimo, oppure se il problema è che quello che abbiamo raccontato molte volte, cioè che siccome è aumentata l'età media di vita di 5 mesi, dal 2019 si andrà in pensione come vecchiaia a 67 anni. Vorrei far ascoltare sì, qualcuno mi dice guardi che è l'iPhone 10, non l'iPhone X, non X, ho capito. Insomma, detto questo, qualcun altro mi dice spottone al PD. No, ho solo letto le dichiarazioni del segretario del PD Renzi, come leggiamo altre dichiarazioni. Ognuno può pensarla come vuole, ma non interessa fare la cronaca di tutti gli scandali bancari, anche di Etruria e anche del ruolo che hanno avuto gli ex vertici di Etruria, a partire dal vicepresidente padre del sottosegretario Boschi. Non c'è nessun problema su questo. Poi, se uno vuole entrare nel merito, al di là della battaglia politica, che sicuramente avrà le banche in campagna elettorale al centro come elemento di discussione politica, secondo me, che la pensi così Renzi, Salvini, Di Maio, Berlusconi, Tajani, che ho dimenticato qualcuno, forse sì, Bersani, non mi interessa. Il tema è che devono pagare in primo luogo i manager, poi tutti quelli che dovevano controllare non hanno controllato, a partire dagli organismi interni, quindi collegi sindacali, audit, società di revisione, professori che hanno dato valutazioni sui prezzi delle azioni che non si capisce come abbiano fatto a darle nel caso delle Venete, e poi anche capire che cosa non ha funzionato sulle autorità di vigilanza. Secondo me, continuare a dire abbiamo fatto il possibile ma non avevamo gli strumenti, ho capito, noi cosa facciamo? Accettiamo il fatto che nonostante le autorità di vigilanza abbiamo beccato, come ha scritto Sole 24 Ore, 24 miliardi di risparmi bruciati per i crack bancari e non se n'è accorto nessuno se non a babbo morto, a buoi già scappati? Non so, non ho nominato la Meloni, è vero, lo faccio adesso. Allora, vediamo Padoan invece. Dopo l'incontro di ieri con i sindacati, finito ieri in serata, è possibile migliorare il meccanismo per quello che riguarda l'età, ma nel rispetto dei vincoli della sostenibilità del sistema di previdenza e dei conti pubblici. Sulla questione specifica dell'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita sono stati condivisi i seguenti principi. Primo, il principio dell'adeguamento rimane assolutamente confermato ed è un pilastro del meccanismo previdenziale nel nostro Paese. Detto questo, insieme alle organizzazioni sindacali abbiamo stabilito un tavolo che avrà aspetti tecnici ma anche aspetti politici, che riguarderà la possibilità di estendere le categorie che sono assoggettate a lavori gravosi, per vedere di distaccare queste categorie dal meccanismo automatico di adeguamento. Oh, vedo che mi scrive Lucio, deve pagare anche Radio 24 che non ha raccontato ciò che stava accadendo sulle banche. Va bene, andiamo avanti così, cioè buttiamo dentro tutto. Io guardo, non ho nessun problema, noi abbiamo fatto le puntate sulle banche, c'era Sentore? No, nel momento in cui abbiamo avuto anche ospiti alcuni degli ex manager bancari che ci dicevano che le popolari andavano meglio, le popolari a maggior ragione se non quotate perché avevano questo legame col territorio, questa penetrazione col territorio, benissimo. Se poi lei vuole paragonare la capacità investigativa di Radio 24 con quella della Consob, della Banca d'Italia, vabbè, adeguiamo anche gli stipendi alla Consob, alla Banca d'Italia e facciamo così, perché a me sembra un modo per buttarla in cacciara. E non ho detto che la Banca d'Italia e la Consob abbiano le stesse responsabilità né degli organismi interni di vigilanza, perché ci sono collegi sindacali pagati, società di revisione pagate per guardare i conti e anche consulenti, professori pagati per valutare il prezzo dell'azione. Né che la Banca d'Italia e la Consob abbiano le stesse responsabilità dei manager, la piramide è diversa, cioè fate pagare i vari mussari per quello che riguarda Monte dei Paschi e tutti il gruppo accusato dell'operazione Alexandre Santorini e anche il gruppo del 5% di Tangenti, questa è l'accusa di Tangenti, fate pagare Consoli, fate pagare Zonin, Sorato, tutti quelli che erano e via cascata. Dopodiché ho detto, non si può dire semplicemente noi abbiamo fatto tutto il possibile, perché se questo è tutto il possibile che puoi fare e abbiamo 24 miliardi di risparmi distrutti non in una banca, cioè che è stata brava lei a nascondere tutto, e insomma è più d'una, eh? Abbiamo la Cassa di Risparmio di Genova, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, vado solo sulle principali, Monte dei Paschi, Cari Chieti, Cari Ferrara, Etruria, e me ne manca una, Marche, Banca Marche. Insomma, non si può dire che ci sia stato un grande caso di malversazione che non hai visto. Andiamo avanti, dicevo, sulle altre notizie. Per quello che riguarda le pensioni, ascoltiamo anche la posizione della Camusso che dice la discussione del governo sulle pensioni. Insomma, se il tema è solo risparmiare, non ci sono spazi di discussione. Il problema non è rinviare l'automatismo, ma è il meccanismo che è ingiusto. Il problema per noi è cambiare quel meccanismo e determinare che i lavori sono diversi tra di loro, quindi se ci sono le condizioni per farlo ben venga, quello che non è, come dire, accettabile è l'idea che poi comunque scattano i 5 mesi, e per questo abbiamo chiesto che i tempi di verifica siano molto rapidi, perché sennò torneremo a chiedere la sospensione. Allora, siamo sotto meteo, pubblicità, poi inizio la classifica. Un dato che può essere in qualche modo di introduzione alla classifica: le spese correnti dei comuni ammontano a 55 miliardi di euro, pari al 3,4% del PIL, e vuol dire un importo pro capite di 910 euro, coperti con 62 miliardi di euro di entrate correnti. Tra l'altro, il 3,8% del PIL, queste ultime superano dunque le spese correnti di 6 miliardi. Le entrate dei comuni sono più alte rispetto alle uscite per 6 miliardi e 800 milioni di euro. La maggiore incidenza delle spese correnti si ha in Sardegna, il valore più contenuto è in Veneto. Nel 2015 sono state complessivamente le spese impegnate dalle amministrazioni provinciali delle città metropolitane pari a 10 miliardi, lì invece coperte solo in parte dalle entrate per 9 miliardi. Meteo, pubblicità e andiamo sulla classifica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. La classifica della settimana. 17:35 minuti, iniziamo con la classifica. Do un'ultima risposta sulle popolari e sugli crack bancari. Mi scrive un ascoltatore: ma ieri un suo ospite diceva che le banche... Sì, era Fabio Pavesi, del Sole 24 Ore, che diceva: guardate che già nel 2013-2014, e il Sole 24 Ore le ha scritte queste cose, anche nel 2012. Altra cosa, se voi mi dite, ma i prestiti baciati, ma gli affidamenti dati a persone, ma che cavolo ne so io, mica entro nelle pratiche d'affidamento di una banca, se poi scopriamo che venivano affidati soldi, questo non lo posso sapere, che il valore dell'azione fosse bello alto, ma quando poi tu vedi Banca d'Italia che non ostacola, se non dico suggerisce, l'acquisto da parte della Vicenza di Etruria per un euro, boh, allora comunque mi prendo anch'io le mie responsabilità. A cascata però, partiamo dal vertice, se no facciamo veramente un calderone inutile. Ma andiamo con la classifica, che oggi è un po' strana, perché siccome abbiamo un approfondimento sulla Sicilia, che ahimè spesso entra nella nostra classifica, ma volevo citare dopo anche un caso virtuoso, lascio uno spazio per dopo, per i dossier che vorremmo modestamente lasciare al prossimo governatore della Sicilia. Andiamo invece al quinto posto e partiamo dalla sanità con un doppio aspetto, cioè da un lato apprendiamo, si fa per dire, che a Firenze 300 carrozzine, dicisi 300 carrozzine che servono ai malati per deambulare, sono bloccate nei magazzini delle ASL, inutilizzabili per chi ha avuto un trauma o un altro problema di salute, e quindi obbligano i pazienti fiorentini a rivolgersi a strutture private. Il costo è tra i 200 e i 300 euro per averne una. Scusatemi, tra l'altro fa notare il sindacato che si vanno a colpire le persone che hanno più necessità di aiuto, dove 250 euro o 300 euro non sono una spesa da poco. Questo perché è stato esternalizzato il servizio di revisione, la faccio breve, l'ufficio ausili. Era una vecchia struttura dove una volta venivano preparati, oltre che i letti speciali, i deambulatori, anche le carrozzine, quando devono essere sistemate. Non viene più utilizzato, il servizio di revisione viene affidato a un'azienda esterna che negli ultimi mesi ha avuto problemi con le carrozzine, sia quelli con le ruote più grandi, quelle per spostarsi in città, sia quelle con le ruote più piccole. Risultato: 300 carrozzine bloccate da risistemare e da riconsegnare ai pazienti. Questo vorrei unirlo alla sanità pugliese. Io non, poi uno dice: ma ce l'hai con Emiliano? Ma non ce l'ho con Emiliano, ma figuriamoci. Negli ultimi 2 anni e mezzo, in cui la Puglia è guidata da Michele Emiliano, è Emiliano che gestisce anche la delega ad assessore regionale alla sanità. Abbiamo già raccontato altre volte premi dati ai dirigenti delle ASL anche in Puglia, l'obiettivo, perché tutti devono essere, e addirittura di come si ritorni. La settimana scorsa, se non ricordo male, avevamo in classifica il fatto che si torna indietro rispetto a quanto deciso dal loro governatore Vendola sui premi dirigenti, tutti i premiati dirigenti. Adesso ve la rispiego. Perché lo dico? Perché abbiamo gioco facile nel dire: ma vuoi legare sti premi a un minimo di risultato raggiunto, non dico produttività, ma di risultato raggiunto? Allora, vediamo se sono meritati o no. I tempi di attesa per le visite ed esami negli ospedali pubblici pugliesi si allungano, dati ufficiali della Regione Puglia, aggiornati ad aprile. Per un elettrocardiogramma da sforzo 120 giorni, 177 giorni per la colonoscopia, 350 giorni per una mammografia, e anche per gli esami e visite programmate si supera il limite di 60 giorni, che è il tempo indicato nel piano nazionale delle regioni. Ma la cosa che mi fa impazzire è che nemmeno per le visite, per le prestazioni definite urgenti, si rispettano i tempi. Allora, dovrebbero essere sbrigate in 70, cioè effettuate in 72 ore. Allora, la colonoscopia urgente, che non è divertente, perché ci può essere un tumore, uno la fa urgente perché ha un problema. Sapete quanto ci metti, visto che è urgente? 83 giorni! Ma voglio dire, si ribella anche il colon su una roba del genere. Elettrocardiogramma urgente, hai avuto problemi con... 30 giorni, giustamente, fai tempo a recuperare, a riposarti. 43 giorni per una holter urgente, 41 giorni per una risonanza magnetica alla colonna vertebrale, lo screening senologico agli ospedali riuniti di Foggia ci vogliono 553 giorni per uno screening senologico. Ma stiamo scherzando? Adesso vi leggo anche la cosa sui dirigenti. La risonanza magnetica al cervello, la AS di Lecce, servono 302 giorni, un anno. I tempi di attesa al Policlinico di Bari per un TAC oscillano tra i 100 e i 200 giorni. Giusto, la TAC, tanto la TAC la fai quando non c'è niente da fare. Cosa faccio domani? Vado a fare un picnic fuori porta? No, forse faccio la TAC. Nel 2016 per una visita di chirurgia vascolare bastavano poco più di 30 giorni, adesso ne servono 79. Ecco perché dico, non è solo la durata, è anche il confronto sull'anno prima. Stesso discorso per la visita oculistica, i tempi passano da 58 a 83 giorni. L'unica cosa che ha visto ridursi i tempi d'attesa è la mammografia, da 402 a 350 giorni. Allora, ormai praticamente il 10% dei pugliesi, secondo il servizio cittadinanza attiva, rinuncia alle cure. Ma la cosa incredibile, appunto, è quello che capita ai dirigenti. A chi mi scrive di che ti lamenti il bello di aver accorpato ospedali e reparti tutti in uno, mi dispiace, la penso in maniera radicalmente opposta a lei. Tenere aperti non i pronti soccorso i centri di primo soccorso, ma gli ospedali, per avere l'ospedale piccolo in cui nessuno è preparato su niente, è una cavolata. Tu vai a farti visitare e poi vieni dirottato in un centro di eccellenza. Io non voglio farmi operare da un medico che vede quella patologia una volta all'anno, voglio farmi operare da un medico o un chirurgo che su quelle patologie interviene 10 volte a settimana, ok? È inutile che continuate con sta cosa dell'ospedale locale per dire c'è l'ospedale anche a Molfetta, è una cavolata dal punto di vista scientifico, è medico, parlate con un medico. Qui un altro discorso, lo dico perché... La settimana scorsa hanno ripristinato tutti gli stipendi dei manager della sanità pubblica con la scusa che in questo modo potranno avere i migliori manager e, diciamo banalmente, prima selezioni i manager, poi li paghi, non che aumenti lo stipendio a tutti così potrai avere i migliori manager. Cioè tutte i salari dei dirigenti sono aumentati, sono tornati al 30% che era stato decurtato negli anni passati. I direttori generali di prima fascia e quindi i dirigenti delle 6 ASL e i 2 policlinici di Bari e di Foggia percepiranno un trattamento economico di 140.000 euro e poi via gli altri. E dicono appunto all'assessorato alla sanità: se come regione vogliamo essere competitivi e attirare i manager migliori, dobbiamo dare anche gli stipendi migliori. Faccio notare che non li stai attirando, stai solo dando più soldi a chi già lavora, e nel caso specifico con i risultati che abbiamo detto sia per Foggia, per lo screening senologico 553 giorni, che per il Policlinico di Bari, per la TAC 100-200 giorni, ma è giusto che tu gli riporti lo stipendio a un più 30%. Andiamo avanti così. Andiamo al quarto posto, ripeto, o terzo, oggi ci fermiamo al quarto, per cui ci fermiamo con quattro posti in classifica. Potremmo dire che è il terzo, le buche a Roma. Chiunque di voi frequenti Roma per lavoro o per diletto ha ben presente cosa significhi girare in quella città nel centro, Non sto solo parlando delle periferie, anche nel centro storico. Buche in continuazione. Io capisco che ci sono gli alberi, capisco che è una città, ma buche in continuazione. Io non so come facciano i romani a usare il motorino o la bicicletta, lo dico onestamente. Allora, che cosa è emerso? Tra il 2012 e il 2014 le buche e le voragini che minano le strade della capitale si erano trasformate, ma va, in un vero affare per i funzionari del Comune di Roma e le società del gruppo Martella. La tecnica era semplice. Scusatemi, per ogni appalto una mazzetta, per ogni buca una mazzetta, buca mazzetta, mazzetta buca, buca con acqua, diceva Tognazzi nel federale, no? Qui buca mazzetta. Allora, la Corte dei Conti adesso vuole rivalersi su 16 dipendenti comunali corrotti, io lo trovo giustissimo, che nei municipi, così come al Dipartimento SIMU, Sviluppo, Infrastruttura e Manutenzione Urbana, hanno intascato tangenti per 450.000 euro in cambio di un trattamento di favore per una serie di bandi da 14 milioni di euro. Ogni gara, lo hanno scoperto i carabinieri, aveva la sua tariffa. Il sistema, viene firmato dal vice procuratore Ugo Montella, si chiama invito a dedurre, che per la Corte dei Conti equivale all'avviso di garanzia. Il sistema, dicevo, era a tal punto consolidato che spesso erano gli stessi funzionari a elaborare gare con valori già gonfiati, ossia ricaricati della tangente, in genere quantificata tra il 2 e il 4%. Ma pensa che solerti funzionari di Roma. Già ti preparavano la gara con la tangente inclusa. La vuole con tangente o senza tangente? Cotta? Al sangue o medium rare? No, come la vuoi la tangente? Al 2, al 3, al 4%? Allora, i carabinieri hanno individuato una contabilità occulta. Alla fine l'ammontare medio delle tangenti attraverso accordi preventivi con i funzionari era pari al 4,14% dell'importo sugli appalti e venivano sistematicamente traslate sul prezzo complessivo pagato dal Comune di Roma in termini di minore quantità o qualità delle opere eseguite. Quindi pagavano i romani, ma pagavano i romani due volte, e noi italiani, perché poi il debito del Comune di Roma qualcuno se lo dovrà accollare. Uno, perché paghi la tangente, e due, perché il lavoro viene fatto da schifo. Cioè, questo è il problema, che abbiamo già detto altre volte, ma almeno ci fosse il lavoro fatto bene. No, perché siccome devi pagare la tangente, metti la buca, la sistemi così alla carlona, e infatti poi si ripresenta la buca, perché la buca si ribella, eh? Allora quindi gli imputati nell'inchiesta contabile, il danno erariale più alto viene chiesto, sono 114.000 euro a Stefano De Angelis per i lavori di manutenzione stradale legati alla canonizzazione dei papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II e i cantieri della grande viabilità del centro storico. Lavorava al SIMU proprio come Francesco Pantaleo, a cui la Corte dei Conti chiede 70.000 euro per le gare dei municipi 3 e 4 e poi 37.000 euro chiesti a Giuseppe Amatizzi del municipio 15 e 31.500 a Carmine Garofalo, che dovrebbe restituire al Campidoglio. C'è poi una lista più lunga di altri funzionari che avevano accettato mazzette per aggiustare le gare per le strade del centro storico di Ostia, Garbatella, Aurelio Tiburtino e dell'Eur, Stefano Serafini, Pietro Seguiti, Giuseppe Lancella, Tommaso Lumini, Stefano Pellegrini, Paolo Fornaciari, Luca Gaveglia, Ercole Lalli, Gian Pietro Cirilli, Roberto Brondi, Doriano Carbonaro e Alberto Giustiniani. Fate anche una squadra di calcio e devolete i biglietti in beneficenza. Andiamo sul traffico, va. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta Focus Economia. minuti. Molti mi stanno scrivendo sulla sanità in Puglia, ma vale non solo per la Puglia, che questo allungare e avere delle liste d'attesa inaccettabili, irreali, criminali, non è dovuto all'affollamento, perché uno dice che la struttura sta lavorando così tanto che non ce la fa. Ma no, lo sappiamo tutti che se vai privatamente, magari con lo stesso medico, se vai a pagare, l'appuntamento te lo danno il giorno dopo. È per questo che mi girano le scatole, visto che beccano anche i direttori delle ASL l'aumento di stipendio. E fate lavorare meglio queste ASL. Legate gli aumenti, tanto me l'hanno già fatta sta legge, legate gli aumenti di retribuzione agli obiettivi raggiunti, altro che intercettare i manager da tutta Italia, così abbiamo i migliori manager ma le peggiori liste d'attesa. Qualcosa non torna, e porca miseria, è ovvio che questo avvantaggia il privato, ed è ovvio che lo stesso medico poi può dirti: guarda, si viene in clinica o in Tramoenia, la vedo domani. Che discorsi sono? Allora, andiamo al secondo posto. Al primo non potete neanche immaginare chi finisce oggi, però al secondo posto finisce l'Italia intera nella tanto amata retorica della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Perché va tutto bene, abbiamo fatto intere puntate sull'industria 4.0, la digitalizzazione, adesso non voglio tornarci sopra, però noi siamo al 25° posto in 28 paesi dell'Unione Europea scommetto che sono sempre dopo di noi, il solito Cipro, meno male che c'è Cipro e la Grecia, sennò ci salvano loro. Perché quanto a digitalizzazione della pubblica amministrazione, allora sto leggendo i dati dell'anticorruzione, quindi Cantone e Consip. Dal 2011 ad oggi le amministrazioni pubbliche italiane a tutte hanno bandito, non sto scherzando, dal 2011 ad oggi 34.183 gare. Mi fate un conto al volo, e questi sei anni divisi 6x36, praticamente stiamo parlando 5.500 gare all'anno. 5.500 gare all'anno, cioè sono una cifra sconvolgente. 5.500 gare all'anno nel settore digitale per appalti che valgono in tutto 20 miliardi e mezzo, quindi una manovra finanziaria. Software, servizi telefonici, piattaforme di trasmissione di dati e manutenzioni. Allora, la cosa bellissima è questa: 34.184 gare in 6 anni. Sono appunto quasi 6.000 gare all'anno. Mi fate anche il calcolo al giorno, per favore, quante gare sono? Nell'85% dei casi si presenta alla gara un solo partecipante. Ma porca miseria, ma sembra la pubblicità di una carta di credito. Ti piace vincere facile? Arriva alla gara uno solo. Ma immaginate una gara in cui c'è uno solo? Ovviamente vince. La metà delle volte non ha proposto alcun ribasso rispetto alla base d'asta. Oh, la cosa che mi fa impazzire, non posso farla troppo lunga con questa cosa, è questa: noi siamo un paese incredibile perché abbiamo delle amministrazioni locali così efficienti, ma così, un sistema così efficiente che ce lo sognano in tutto il mondo. Dove trovate un paese in cui le gare vengono vinte prima, anni prima della pubblicazione del bando? Ci sono uffici del Mago Telma, capito, sono sei gare al giorno, ecco, mi avete fatto il calcolo dal 2011 al giorno. Ci sono gare, nel comune di Lecce fanno il bando per una gara di gestione del centro interculturale, viene vinta sette anni prima. Cioè, capito, qualcuno si è svegliato e ha detto: secondo me fra sette anni faranno la gara, e la vince. Incredibile. In Lombardia un contratto sulla sicurezza viene affidato dall'ente regionale della protezione ambiente con tre anni di anticipo rispetto alla gara. Oh, anche i mega rialzi non si capisce. Cioè, c'è un'azienda, si chiama Edil Luca, con una C, che con una sola gara è arrivata da una base d'asta di 62.000 euro, si è aggiudicata la gara a 1 miliardo e 100 milioni. Ma che è Sotheby's o la digitalizzazione del paese? E poi cito l'ultima chicca. La cosa più desolante è la mancanza di competenze specifiche dei dirigenti in materia di informatica. Il tentativo di istituire la figura del Chief Digital Officer a costo zero è fallito. Chiaro che se c'è il dirigente che non ci capisce molto, abbiamo 34.183 gare e la digitalizzazione della pubblica amministrazione è, come voi vedete, ma che t'aspetti? Andiamo su GR24, ho una leggerissima acidità di stomaco e poi vi racconto una regione bellissima che non è la Sicilia, non è la Campania, non è la Calabria, non ci arriverete mai, ma è veramente incredibile. Alla faccia del piccolo è bello. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Assenti ma a loro modo presenti, impegnatissimi ma che poi si impegnano ad esserci, attenti ma tanto distratti, volenterosi ma un po' impacciati, autorevoli ma anche giocherelloni. Federico, guarda che c'è una parola che riassume tutto questo: è padri. Ed è proprio di padri e ai padri che parleremo, per dare qualità al tempo passato con i figli, quindi anche al nostro. Padri casalinghi e padri incasinati, padri modello e padri single, padri separati, padri indaffarati, padri in pace con loro stessi, perché non ci sono né padri perfetti e né padri imperfetti. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia, la domenica alle 11 su Radio 24. Matteo, e le mamme? Per fortuna che ci sono. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I campioni dello sport, le loro imprese, le loro storie, i loro segreti. Scopriteli a Olimpia, la città dello sport, quest'anno con un ospite d'eccezione. Sono Stefano Ottirelli, seguiteci qui a Olimpia, alla scoperta delle menti dei campioni. Sono Dario Ricci, vi aspetta Olimpia, miti e verità dello sport, ogni domenica alle 21, qui su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. And the winner is... alle 18 e 9 minuti il vincitore della classifica della settimana, alcuni di voi l'hanno individuata, non so come abbiano onestamente fatto, la regione Val d'Aosta al primo posto. Vedete che l'Italia è, si dice, troppo lunga, ma delle volte è troppo corta. Allora, da dove inizio? Iniziamo dal casinò della Vallée. Io non ho capito come faccia un casinò o distribuisce soldi, nel senso che è il casinò dove è più facile vincere al mondo. Ha perso dal 2003 al 2016 134.583.000 euro, ossia 26.000 euro al giorno. Praticamente ogni valdostano, neonati compresi, perde al casinò, senza saperlo, un centesimo all'ora. Ma a parte questo, la casa da il casinò è pubblico, è di proprietà della regione. L'anno scorso ha fatto un rosso da 46,6 milioni e deve ricapitalizzarlo, probabilmente dovrà metterci 20 milioni di euro. A parte il fatto che un casinò sia di proprietà della regione, io veramente... Allora, la Val d'Aosta ha 126.880, forse mi scrive... uno hanno, forse hanno la roulette solo con il solo il rosso. Comunque la Val d'Aosta ha 126.883 abitanti, più o meno la metà di Verona, o quanti abitano a Giuliano in Campania, provincia di Napoli. La densità territoriale è la più bassa in Italia, la popolazione è disseminata in 74 comuni, questa è bellissima, sono 74 comuni in 126.000 abitanti, ogni comune ha i relativi uffici. Poi ci sono le strutture periferiche della ci sono gli uffici della regione e ci sono le strutture periferiche dello Stato centrale. Praticamente la Val d'Aosta è il più grande, rappresenta il più grande serbatoio di posti pubblici del paese in rapporto agli abitanti. Non è la Sicilia, non è la Campania né la Calabria. Sono 14.101 dipendenti pubblici, ossia uno ogni 9 valdostani neonati inclusi. Dunque, 2.820 sono dipendenti regionali, sono 200 in più rispetto al Piemonte. Faccio notare che il Piemonte ha 200 dipendenti pubblici regionali in meno della Val d'Aosta, ma ha 4.400.000 abitanti contro i 126.000 abitanti. E mi parlate ancora delle regioni a statuto speciale? Io sono per eliminarle tutte, mi dispiace, anche mantenendo il bilinguismo, mantenendo quello che volete, ma allora andiamo avanti con la Val d'Aosta. Dunque, da questo punto di vista, per quello che riguarda la Val d'Aosta, qui è partito un cellulare ma non è colpa di nessuno. Allora, per quello che riguarda la Val d'Aosta, ci sono 2.300 unità, 700 dipendenti nel casinò, per non parlare di 22 enti strumentali elencati nel bilancio regionale. Praticamente in ogni famiglia della Val d'Aosta c'è un dipendente, un membro della famiglia che campa con i denari pubblici. Tra l'altro il governatore non viene eletto dal popolo, ma nominato dal Consiglio regionale, tant'è che quando si è dimesso il presidente Pierluigi Marchis, dopo che gli hanno beccato 25.000 euro in contanti nel suo ufficio, non si torna a votare e si mette d'accordo il Consiglio regionale. Allora, in una regione come la Lombardia c'è una poltrona per assessore e per deputato regionale ogni 125.000 abitanti. Secondo questa logica in Val d'Aosta dovrebbe essercene una sola, invece sono 35, una ogni 3.600 residenti. Da qui in poi, insomma, è ovvio che tutti i conti e i costi sballano, se si considerano anche i 111 dipendenti. E poi l'ultima cosa, e poi sto zitto. questa strana abitudine delle porte girevoli, per cui tutti prima di molti prima di entrare in regione hanno già ricoperto o tornano a ricoprire quando escono cariche impartecipate della regione. Su 35 consiglieri, 10 hanno ricoperto incarichi in aziende o enti regionali. 4 sono stati sospesi ai sensi della legge Severino perché raggiunti da condanne di primo grado in seguito alle inchieste dell'uso improprio di fondi di partito. Poi cito le affermazioni di Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimafia, che a metà ottobre ha detto: in una realtà con così pochi elettori e una presenza significativa di persone riconducibili a gruppi dell'Andrangheta, è singolare che in Valle d'Aosta non si sia indagato sul voto di scambio per accertare se ci sono stati tentativi di condizionamento sulle scelte politiche e amministrative. La regione non solo possiede il casinò, possiede recentemente, si è comprata anche un albergo, si chiama Hotel Billia, ha speso 58 milioni. E ha un altro, è altro personale. Ancora, 162 milioni per realizzare un impianto avveniristico come lo Skyway, affida la gestione alla società Funivie Montebianco, nella quale i privati hanno meno di metà della quota di capitale, senza però fare una gara. L'altra metà è pubblica. 30 milioni di euro, questa è bellissima, voglio chiudere su questa. Allora, abbassatemi un attimo, che questa la voglio leggere bene. Hanno speso 30 milioni di euro dei contribuenti per un aeroporto gestito da un'altra società controllata da un petroliere genovese proprietario della compagnia aerea Air Valais. Anche qui la partecipazione della regione. Vedete, e allora che c'è? No, scusatemi, dal 2008 non c'è un volo di linea per la Val d'Aosta, una terra a Torino. L'aeroporto continua a costare 1,5 milioni di euro ed è pieno di sorprese, perché si scopre che la regione nel 2001 ha stipulato con Deutsche Bank un contratto in derivati per 543 milioni, cioè 4.300 euro ogni cittadino, a valle di un prestito obbligazionario per comprare le centrali idroelettriche per tutelarsi dal rischio di aumento dei tassi di interesse. Siccome sono i tassi sono al minimo storico, adesso i valdostani per quel contrattino lì stanno accumulando, accantonando 43 milioni e mezzo di euro, 27 milioni di capitale e 16 milioni di interesse. Un applauso alla regione Val d'Aosta, di cui ancora non conoscevo queste delizie. Emanuele Goldoni, fondatore di Mine Gioielli, che non c'entra con i diamanti, così non riapro la polemica di quattro giorni fa. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, quando nasce Mine Gioielli? Perché la data è molto, ahimè, simbolica. Chi vi ha aiutato e quanti siete e quanto fatturate? Niente, guardi, tutta la storia è abbastanza simbolica, nel senso che siamo nati proprio i giorni del terremoto dell'Emilia. Non dimenticherò mai, adesso siamo stati sorpresi il giorno del 20 maggio di notte, e quindi poi abbiamo dormito in macchina qualche giorno, e la data del 29 maggio era appunto programmato l'arrivo dei macchinari per aprire la nostra attività, cioè forno per cuocere le ceramiche, macchinari, contorner per ceramiche e quant'altro. E solo che appunto quella mattina, mentre appoggiavamo appunto questo forno pesantissimo, siamo stati sorpresi da quest'altra scossa potentissima, e da lì appunto siamo rimasti sconvolti, ecco. Ma i macchinari, sappiamo sì, benissimo sì, che quel terremoto, in me 28 vittime, 350 feriti e 12 miliardi di euro di danni stimati solo in Emilia Romagna, ma i macchinari si sono salvati e come avete fatto dopo? Le dico appunto, avevamo appena appoggiato il forno, e per fortuna, perché sennò ci saremmo anche fatti male, perché le dico, abbiamo appoggiato il forno, questa scossa fortissima, eravamo al piano terra, mi creda, non riuscivamo a infilare la porta d'uscita proprio per accedere all'esterno, dal gran che la porta si muoveva, sembrava che venisse giù la casa, è stata una cosa incredibile, tant'è che noi nei giorni successivi abbiamo preso una roulotte, siamo accampati per tutta l'estate fuori da casa, come hanno fatto tanti, e abbiamo preso un container da impresa edili in sostanza e abbiamo cominciato l'ufficio in giardino in un container, ecco. Bravi. E quindi questa è stata la nostra partenza. Poi, insomma, adesso come andate invece? Adesso andiamo abbastanza bene, tanto che abbiamo appunto inventato, cioè fondato questo brand che è Mine, si scrive Mine come il mio in inglese, e siamo i primi in Italia e non solo a fare gioielli in ceramica infrangibile personalizzabili con immagini, foto, scritte, anche scritte di tuo pugno. Quindi pensi che io ne ho uno indosso scritto dalla mia bambina, con scritto ti voglio bene papà, proprio dalla sua calligrafia, io lo indosso tutti i giorni, per me è un'emozione grande. Quanti quindi, siete e quanto fatturate e chi vi ha dato una mano? Guardi, siamo ancora una ditta a conduzione familiare, siamo piccolini, siamo in cinque, volume d'affari di super giù poco meno di 300.000 euro all'anno e ci stiamo ancora autofinanziando. Abbiamo lanciato il brand, siamo presenti nello shop online e in alcune gioiellerie in Emilia Romagna, però ecco, stiamo cercando appunto un soggetto terzo che creda nel nostro progetto e che abbia voglia di investire con noi. Ma le banche vi hanno risposto? O non le avete cercate? Non le abbiamo cercate al momento non le abbiamo cercate perché insomma crediamo più in qualche imprenditore. Quindi che crowdfunding, qualche o business angel crowdfunding sostanzialmente, sì, capitale privato. Ci stiamo avvicinando adesso, esatto. Allora senta, Goldoni, in bocca al lupo a lei, alle cinque persone che lavorano con lei e soprattutto visto come eravate partiti quando sono arrivati i macchinari con la seconda scossa di terremoto, in bocca al lupo vivissimo, il suo è un esempio bellissimo, non voglio fare retorica così facile, insomma, c'è tutta un'altra Italia, lo dico a chi mi scrive, noi raccontiamo gli sprechi di denaro pubblico, ma non è che stiamo, ci sono tante amministrazioni virtuose, ci sono migliaia di casi virtuosi, ecco perché abbiamo immaginato questo appuntamento con chi si è rimboccato le maniche anche nei momenti di crisi e il suo è stato un momento di tragica crisi e disastro naturale. Grazie Manuel Goldoni, andiamo sul... traffico, mi scrive un ascoltatore, ti devi vergognare, ci hai ammorbato con la Sicilia e ora per le elezioni siciliane ti sei ricordato della Valle d'Aosta, ma sai che non capisco. Comunque adesso parliamo della Sicilia e lasciamo il nostro cadeau al futuro governatore. 349-238-6666 per gli sms e whatsapp. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Focus Economia. Allora, a Claudio Fava, candidato della sinistra, a Fabrizio Micari, candidato del PD, a Giancarlo Cancellieri, candidato del Movimento 5 Stelle, a Nello Musumeci, sostenuto da tutte le forze di centrodestra, lasciamo questo nostro piccolo cadeau, memorandum, nota. La regione che uno di voi quattro andrà ad amministrare ha debiti per 8 miliardi di euro. La Corte dei Conti ha avanzato dubbi sulla possibilità della Regione di riscuotere 2 miliardi di euro di crediti come residui attivi, lo scrive la Corte dei Conti. Il debito ammonta comunque anche al netto di quello a 5 miliardi e mezzo. Sostanzialmente, come ha scritto la Corte dei Conti, la Sicilia sarebbe già fallita, ma non può fallire perché fa parte di uno Stato sovrano. Incassa da entrate proprie 11 miliardi di euro a spese per 15 miliardi di euro. Bellissimo. Immaginate vostra moglie o vostro marito che incassa 11 e spende 15. Che fine può fare? Roberto Galullo, che molto se ne è occupato su Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Ti lascio il microfono, nel senso che ci devi dire, come appunto qualcuno mi scrive, ma non è un pizzino, è proprio un dossier, una nota, un memorandum per il prossimo governatore, qual è la situazione più urgente che deve affrontare al di là delle amenità, per non dire cavolate e castronerie, che ho sentito pronunciare in questi giorni da vari esponenti politici. Mi manca solo il traffico di Benigni e ci siamo, ma non voglio entrare in campagna elettorale, ci mancherebbe. Le priorità economiche, a te il microfono per i prossimi 4 minuti. Allora, io direi di cominciare, di partire dalle risorse, quindi dalla capacità di spesa e dalla qualità della spesa. Diamo un dato. Dal 2014 al 2020 la Regione Sicilia gestirà 17,6 miliardi di euro. Sono soldi enormi, è una valanga, un fiume di denaro straordinario che farebbe ricca qualunque società, che farebbe ricco qualunque piccolo Stato sovrano, facendo riferimento a quel che tu dicevi prima. Basti pensare che dal 94 al 2020, solo per l'impresa, escluso il settore dell'agricoltura, sono piovuti 30 miliardi. Questi euro, queste cifre quindi ci dicono che cosa? Che il problema ultimo della Sicilia è stato quello delle risorse, ne sono arrivate a valanga. Purtroppo non sono stati in grado, ma non soltanto l'ultimo governatore, ma anche i precedenti, sia ben chiaro, di mettere a frutto questo tesoro. Veniamo alle cose concrete. Dicevi di cosa ha bisogno, qual è il cadeau che lasciamo al governatore? Non lo so, ma di fatto la Sicilia è priva di un piano industriale. Cosa vuol dire questo? Traduciamolo in soldoni. Vuol dire che settori chiave del rilancio economico e sociale della Sicilia, che sono il turismo, i beni culturali, l'agricoltura e da ultimo, non certo per importanza, ma per stato di fatto, le attività produttive, mancano, non hanno un'unica cabina di regia. Quindi vuol dire che ciascun settore va per proprio conto, senza render conto al settore vicino. Ci sono 4 assessorati diversi, 5 dipartimenti. Questo è ovviamente uno stato di fatto che non è casuale, è stato assolutamente voluto nel tempo. Diamo un altro dato significativo, non tanto nei numeri ma nella sostanza. La burocrazia, perché ci tengo molto a sottolinearlo e perché è uno dei settori chiave che si troverà ad affrontare il prossimo governatore, se fai caso, tutti i candidati da questo tema stanno abbondantemente alla larga. Perché la burocrazia, la mala burocrazia, la cattiva gestione dell'amministrazione porta a rapporti corruttivi e di corruttela con il mondo dell'economia, con il mondo produttivo, purtroppo, perché quando c'è un esercito di persone, un esercito di dirigenti, lì purtroppo si annida la corruzione. Allora Roberto, noi leggiamo e leggeremo i tuoi articoli anche sulla Sicilia. Io ricordo che al di là della, ne abbiamo parlato moltissime volte nella nostra classifica, ricordo che al di là dell'attivismo dell'assessore al turismo che sta seminando soldi a pioggia, la Sicilia purtroppo ha registrato un calo nella parte di presenze turistiche meno 7%, nonostante quello appunto che è stato dato complessivo a livello nazionale. Voglio solo dire un'altra cosa. Il caso di Palermo è, che lo citavo in apertura, vorrei chiudere con questo, e abbiamo parlato dei pulmini per disabili che mancano, oggi scattavano gli 80 euro per i forestali, giustamente prima hanno firmato, l'assessore al turismo si chiama Anthony Emanuele Barbagallo, che va avanti a botte di iniziativa nel suo collegio elettorale per 10.000 euro, meno 10.000 euro, ma intanto i dati calano sul flusso turistico. Un esempio virtuoso, chiudo da dove siamo partiti. Guardate che cosa è successo al centro storico di Palermo da quando, per vincere la qualifica sito UNESCO, hanno comprato nuove spazzatrici, hanno pedonalizzato e ricambiato la pavimentazione del centro storico, tutto il percorso arabo-normanno. Uno va a Palermo e vede ristoranti, bar, negozi, riqualificazione anche degli edifici e turisti, anche stranieri. Il pubblico crea le condizioni, pedonalizza, fa l'arredo urbano, pulisce, tiene pulite le strade, il privato poi fa la sua iniziativa. Quello è un esempio virtuoso con cui vorrei chiudere. Intanto grazie Roberto Gallullo, grazie Barbara Bianchi, Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione e in studio. Noi ci risentiamo come sempre la prossima settimana dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.